Sapete che parte 1 è uguale a V. Parte 2 è uguale a anno. Parte 3 è uguale a no. Parte 4 è uguale a dan. Parte 5 è uguale a te. Sostituendo le variabili con il loro contenuto, si ottiene che parola è uguale a V sommato a anno meno no sommati a dan e te. Quale parola si ottiene eseguendo questa operazione?